fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi un bambolo. No, ragazza, no, mia vita e le mani di una donna, no, non la metterò più. No, ragazza, no, no, ragazza, no, del mio amore non ridere. Non ci gioco più, quando giochi tu fai far male da piangere. Stasera la mia vita nelle mani di una donna, no, non la metterò più. No, ragazza, no, tu non mi metterai fra le 10 bambole che non ti piacciono più. Oh no, oh no. Più quando giochi tu sai far male da piangere.